Componenti, non è che perché ho i soldi a Las Vegas li getto. Ogni cosa ha senso ed ha più di un aspetto. Quel che mi ha lasciato mio padre da inventore. Non sono solo robot, ma stimoli a pensare. Perso nel deserto, ferito e spaventato. Con quello che ho trovato mi sono riparato. Curato e poi fuggito da tutto quell'orrore. Ed ora mandarino vengo ad affrontare il senso, riparare, riusare, reinventare, andare avanti è proprio sapere ricreare, niente da gettare, tutto da ripensare, guardalo due volte prima di buttare, il senso è riparare, riusare, reinventare, andare avanti è proprio sapere ricreare, niente da gettare, tutto da ripensare. Guardalo due volte prima di buttare componenti. Sì, il mio cuore è malato, ma la mia mente è forte. Per questo io non tremo, che mi sei mai da morte. Se questa nostra terra ha problemi di calore, come per il mio cuore la saprò riparare. Gli uomini, il lavoro, il pianeta, le stagioni. Perdiamo troppe cose a fare gli spreconi. Dal mandarino il gioco bisogna far sparire, e dal virus extremis ci dobbiamo vaccinare. Il senso è riparare, riusare, reinventare, andare avanti è proprio sapere ricreare. Niente da gettare, tutto da ripensare, guardalo due volte prima di buttare. Il senso è riparare, riusare, reinventare, andare avanti è proprio saper ricreare. Niente da gettare, tutto da ripensare, guardalo due volte prima di buttare. Sì, Jarvis, potrebbe servirci anche questo.